Incontri di Gianfranco Fabi. Whitney Houston con queste note, step by step, day by day, passo a passo, iniziamo il nostro incontro. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano e buongiorno, buon pomeriggio a Cristiano Radaelli. Buongiorno. Cristiano Radaelli, presidente di Anitec, Associazione Nazionale Industria Informatica, Telecomunicazione, Elettronica di Consumo, tante industrie, ma partiamo da Whitney Houston. È una canzone molto, diciamo, molto vivace, ma anche significativa, passo a passo. Sì, per quello che mi piace, nel senso che la voce che aveva Whitney Houston è sicuramente una voce che mi dava, credo, forse non solo a me, sensazioni veramente molto forti. E nel frattempo questo testo dà un po' l'idea di quello che abbiamo di fronte a noi. Se vogliamo portare avanti una serie di istanze per migliorare il paese, abbiamo bisogno di procedere passo a passo nella direzione di miglioramento. Quindi senza tentennamenti, con costanza, guardando ogni piccolo passo avanti per migliorare. Ecco, fare il passo secondo la gamba, ma farlo, fare dei passi avanti, non fermarsi a riflettere. Siamo nella società del cambiamento, siamo una società che soprattutto nel settore appunto dell'informatica, delle telecomunicazioni, della tecnologia, ci riserva ogni giorno delle sorprese. Una sintetica definizione, come è messa l'Italia? L'Italia in tutte le statistiche internazionali, ahimè, è in una posizione piuttosto arretrata. Quindi è necessario che passo a passo cominciamo a prendere una strada di miglioramento. Miglioramento che deve essere un miglioramento che investe un po' tutti i settori della società. Quindi non bisogna affrontare i vari settori in modo separato, bisogna avere una visione organica, avere un piano per il futuro e portarlo avanti in modo coordinato. E come dice la canzone, un po' proprio passo a passo, giorno per giorno. Ecco, Anitec è aderente a Confindustria, ha fondato Confindustria Digitale. E quali sono gli obiettivi di questa confederazione, di questa unità di imprese all'interno appunto del sistema imprenditoriale complessivo? Ma diciamo, noi rappresentiamo come Anitec i fornitori di prodotti e servizi del mondo dell'ICT, cioè Information and Communication Technology, quindi telecomunicazioni, IT e elettronica di consumo, e con, diciamo, Confindustria Digitale intendiamo rappresentare tutto il mondo dell'ICT, quindi tutta la filiera, includendo in questo anche gli operatori telefonici, call center, i fornitori di servizi IP, un po' tutte le aziende che sono coinvolte nel settore ICT. La visione che ci accomuna è che riteniamo che l'ICT possa essere una leva, forse la leva più importante oggi disponibile in Italia, ma anche negli altri paesi, per generare sviluppo e per aumentare, diciamo, quella che è la ricchezza di un paese, nel contempo aumentando anche quella, la qualità dei servizi ricevuti dai cittadini. In questo senso tutta la filiera spinge in questa direzione, perché questa ipotesi venga recepita da chi poi ci governa, e insieme, da un certo punto di vista, lavorare perché questo cambiamento, in modo da arrivare a una società basata sulle nuove tecnologie, sulla visione, diciamo, del nuovo modo di stare insieme, sia possibile. Ecco, chiunque ci governerà nei prossimi mesi deve comunque fare i conti con questa agenda digitale. Abbiamo parlato tanto di agende. Questa agenda digitale cos'è? È un libro bianco da scrivere o c'è già un'agenda precisa che voi portate all'attenzione, di cui sollecitate appunto non solo l'approvazione ma soprattutto la messa in campo operativa? Sì, con questo tocca un punto molto importante, perché spesso per gli esperti del settore, parlando di agenda digitale, è un discorso chiaro, anche se poi magari tra le varie persone ci sono opinioni non sempre esattamente identiche. Quando poi si esce dalla cerchia delle persone esperte del settore, sembrano un po' parole di un gergo in cui chi non è coinvolto rischia un po' di perdersi o quasi si intimorisce. Ecco, questo programma è ascoltato molto a quest'ora della domenica da quello che possiamo definire, con tutto il rispetto, l'uomo della strada. È ascoltato molto in macchina. Allora spieghiamo un po' all'uomo della strada, che ha una grande dignità perché poi è un cittadino di tutti i livelli, che cos'è l'agenda digitale. L'agenda digitale, allora, la società può, come sta evolvendo in Italia, nel mondo, sta cambiando il modo di stare insieme le persone. Questo coinvolge sia gli aspetti, diciamo, di interazione sociale, sia gli aspetti ludici di gioco, sia gli aspetti di lavorare. Allora, non è corretto ripensare la società solo sulla base delle tecnologie, almeno personalmente non lo condivido e le aziende anche che rappresento non lo condividono, ma bisogna avere il coraggio, la forza di vedere che sono cambiate le modalità di stare insieme, di lavorare, di giocare insieme, e quindi introdurre tutte quelle cambiamenti che possono permettere anche alla popolazione italiana di godere di questo cambiamento e di godere non soltanto negli aspetti di socializzazione, che molto ci sono, ma anche di goderne in termini di poter avere servizi migliori per i cittadini e avere delle aziende più competitive. Quindi è anche un problema di regole che lo Stato dovrebbe dare perché la competizione delle imprese sia più efficace, sia più efficiente, possa creare un mercato veramente in evoluzione? Sì, sicuramente c'è anche un problema di regole che devono essere in particolare certe, perché spesso purtroppo in Italia c'è il problema che le regole cambiano frequentemente e questo disincentiva chi vuol fare investimenti, certo, in Italia. Perché la deroga è una realtà purtroppo molto comune, la deroga, la proroga, il fatto che o il cambiamento dell'impostazione in base al quale le regole sono poste, sì, no? Questo, se viene modificato troppo frequentemente, può creare disincentiva poi chi vuole investire. Io credo che quello che sia molto importante è riuscire a governare, a guidare un cambiamento culturale dove le persone capiscano che l'utilizzo delle nuove tecnologie è una leva che permette di migliorare la qualità della vita e non venga invece visto come un timore. Questo presuppone sicuramente la disponibilità su tutto il territorio, quindi non soltanto nelle zone più popolose, ma anche nelle zone, diciamo, con meno intensità di popolazione, di potersi connettere ad alta velocità, la famosa banda larga che vuol dire poter usufruire in modo veloce dei servizi della rete internet, e quindi questo deve essere un servizio che deve essere a disposizione di tutti i cittadini. Però ci sono due aspetti: uno è l'aspetto tecnologico, quello che viene chiamato in gergo l'inclusione digitale, cioè c'è l'aspetto tecnologico, cioè fare in modo che tutti i cittadini possano usufruire di queste applicazioni e quindi avere la famosa banda larga. L'altro è l'aspetto culturale. Noi abbiamo una grande fascia della popolazione italiana che non sente o vive con una certa difficoltà questa attività o questa connessione in rete. Questo sicuramente è un fenomeno che è in fortissima evoluzione, sta diminuendo giorno per giorno. Bisogna cercare di guidarlo in modo che venga superato. E anche, vorrei dire, superato nel mondo del lavoro, perché mentre l'Italia è ai primi posti nel mondo, ad esempio come utilizzo di Facebook, quindi certo, sull'utilizzo della rete per socializzazione, è necessario che questi stessi strumenti possano essere utilizzati per migliorare l'efficacia, la produttività in azienda e il rapporto cittadino-utente con la pubblica amministrazione. Ecco, le imprese italiane, l'Italia lo sappiamo, è un paese di piccole e medie imprese, a livello di potenzialità, anzi direi più di capacità di sfruttare le potenzialità della rete, a che punto sono? Cioè c'è ancora molto da fare, molti passi avanti da fare per connettere in rete in maniera operativamente positiva le imprese, soprattutto le piccole imprese. Sicuramente c'è molto da fare, questo è anche uno dei problemi, a mio parere, per i quali l'economia italiana sta crescendo meno di altre. Le statistiche internazionali dicono che le imprese, le piccole e medie imprese che utilizzano internet e quindi la rete sia per la gestione sia dei loro fornitori sia dei loro clienti crescono e hanno profitti che sono il doppio di quelle che non lo fanno. Le piccole e medie imprese sono da sempre la forza italiana, è necessario che si riesca a fare questo cambiamento per cui le piccole e medie imprese riescano ad agire in modo positivo e efficace anche in internet, quindi vendendo sul mercato globale in modo efficace. Vorrei anche dire una cosa importante che vale sia per le piccole imprese ma anche per pubblica amministrazione, per tutto certo. Il resto del mondo, e ritornare al discorso del cambiamento culturale. Non basta avere il tablet, in realtà per poter essere efficaci bisogna ripensare al processo con il quale si lavora, con il quale ci si interfaccia con i fornitori e i clienti, basandolo sulle nuove tecnologie, le nuove applicazioni. Ma se si semplicemente si introduce un tablet di nuova generazione e si lasciano i processi come sono prima, è un disastro. Cioè questo è anche un richiamo a chi produce informazioni, a chi produce anche gli strumenti che vengono utilizzati attraverso il tablet, a chi produce poi delle opportunità di acquisto, per esempio, attraverso questi nuovi sistemi. Quindi ci vuole un cambiamento culturale complessivo, non solo nella capacità e nella volontà di usare questi nuovi strumenti, ma nella capacità di utilizzarli in maniera nuova, non fare cose vecchie con strumenti nuovi. Certo, infatti sia nella scuola che nella sanità che nelle imprese, perché dobbiamo guardare un po' tutto il mondo, non basta e anzi forse quasi controproducente se semplicemente diamo un nuovo strumento. Dobbiamo ripensare al modo in cui facciamo scuola, al modo in cui lavoriamo in azienda, interfacciamo clienti e fornitori. Ecco, e rispetto agli altri paesi europei, per esempio rispetto alla Germania o alla Francia, a cui siamo più vicini, siamo veramente in ritardo su questo fronte? Ma direi di sì. La cosa viene evidenziata anche dal fatto che le imprese che lavorano nel digitale contribuiscono in Italia, a seconda delle stime, in un valore che è circa il 2% del PIL. In altri paesi, nei grandi paesi europei, la cosa è sul 4-5%. Questa parte di aziende sono anche quelle a maggiore crescita, quindi il fatto che se noi riuscissimo ad avere più aziende che operano in questa attività, genereremmo più valore, ma anche più valore in quella parte di società che poi cresce e quindi ha maggior valore. Ecco, però possiamo anche vedere la cosa da un profilo, diciamo così, positivo, insomma, che c'è maggiore opportunità di crescita in Italia. Su questo assolutamente sì. Ecco, quale può essere la cosa, la decisione che sblocca un po', che fa fare un passo, come diceva Whitney Houston, un passo dopo passo, ma che lo faccia fare questo passo veramente? Qual è l'ostacolo principale? Lei ha parlato appunto di ostacoli culturali, abbiamo parlato di regole, un piccolo suggerimento al governo che verrà? Beh, bisognerebbe ad esempio cominciare nell'ambito del rapporto cittadini-pubblica amministrazione, spingere fortemente che la pubblica amministrazione completi i servizi che fornisce, fornendo dei servizi dove il cittadino può farlo in modo digitale dall'inizio alla fine. Perché è vero che la pubblica amministrazione fornisce anche tante collegamenti col cittadino, informazioni, ma spesso sono su informazioni o aspetti singoli. Perché la cosa cambi, bisogna che il processo sia gestibile in internet dall'inizio alla fine. E questo porterebbe anche dei risparmi sul fronte della pubblica amministrazione. Assolutamente sì, questo porterebbe dei risparmi notevoli. E i risparmi sono forse molto utili in un paese in cui deve fare i conti appunto con i soldi da spendere. Pubblica amministrazione potrebbe quindi risparmiare su questo fronte. La pubblica amministrazione è un settore molto vasto. Quanto può contare la pubblica amministrazione nell'ambito del mercato dell'ICT? Beh, ha un aspetto, ha un valore molto grande come approccio. Ci sono alcuni interventi che permetterebbero di risparmiare in tempi brevi, ad esempio il passaggio a un utilizzo maggiore del cloud, cioè quindi della gestione unica dei dati svincolata dalle singole postazioni, e il fatto di avere dei dati che possono essere scambiati in modo più semplice tra le varie parti dell'amministrazione nazionale o regionale. In modo quindi, quello che viene detto, un po' la trasparenza, la possibilità di dialogare tra le varie, quindi di scambiarsi certo. Dati tra le varie parti dell'amministrazione. Però, come dicevo prima, e anche facendo un po' riferimento alla mia esperienza aziendale del passato, è un processo che va gestito e quindi bisogna pensare dove si vuole arrivare e poi implementare un piano che coinvolga nello stesso tempo il cambiamento dei processi, il coinvolgimento dei dipendenti e degli utenti e nello stesso momento ovviamente il cambio tecnologico. Certo, quindi non fare i processi vecchi con metodi nuovi, ma cercare di rivedere complessivamente, cioè non si tratta solo di produrre un certificato in maniera informatica e elettronica, ma magari di fare a meno del certificato perché i dati possono passare senza nessun supporto né cartaceo né virtuale. Incontri. Ancora con le note di Whitney Houston, proseguiamo il nostro incontro con Cristiano Radaelli. Buon pomeriggio a tutti. Cristiano Radaelli, presidente di Anitec, ma anche responsabile di Nokia Siemens come attività aziendale. Ho un ruolo globale in azienda, sì, sì. Quindi una multinazionale che si occupa ovviamente di informatica, telecomunicazioni, elettronica di consumo. Ecco, una multinazionale, come vede una multinazionale la realtà italiana? Beh, la realtà italiana in questo momento è fortemente influenzata dalla riduzione degli investimenti, quindi il mercato negli ultimi anni è stato un mercato in continua discesa, quindi questo rende difficile l'operatività un po' per tutte le aziende del settore ICT, quindi anche allargando un po' a tutte le aziende che rappresento come Anitec, sicuramente c'è questa diminuzione di mercato, sta rendendo complessa la situazione e quindi molte aziende poi sono alla fine entrate in un percorso di ristrutturazione, credo che quasi tutte quelle del settore. Ecco, una ristrutturazione anche forte, anche pesante. Molto spesso si parla di delocalizzazione, di portare all'estero appunto le produzioni che avvengono in Italia. È un processo che è ancora in corso, è un processo che in qualche modo può avere magari una possibilità di avere, non dico un ritorno, ma qualche possibilità di valorizzare il lavoro italiano in Italia. Magari partendo anche dalla sua esperienza, è una lunga esperienza, non lunghissima, ma lunga esperienza aziendale, si è trovato anche di fronte alla gestione operativa di stabilimenti in Italia, mi sembra. Sì, credo che al giorno d'oggi la localizzazione debba essere vista più come vicinanza al cliente, in quanto non si può parlare, diciamo, parlare un po' di tutti i vari aspetti, perché ci possono essere realtà molto diverse a seconda delle specifiche produzioni o delle attività che vengono sviluppate. Quindi in alcuni casi la differenza di costo tra agire in una zona o dell'altra del mondo può essere molto significativa. Credo che però l'elemento più importante sia quello della vicinanza al cliente strategicamente, nel senso che se una società vuole essere strategicamente presente e molto forte in un continente o in un'area del mondo, in qualche modo deve anche andare a posizionare delle proprie attività in modo significativo e rilevante in quell'area. Certo. Sì. Ecco, sotto questo profilo l'industria italiana, appunto, che abbiamo detto già nella prima parte, è un'industria basata su piccole e medie imprese, comunque è difficile pensare di andare a portare all'estero le produzioni. Forse è più opportuno che l'industria italiana si concentri sul portare all'estero i propri prodotti, cercare di portare all'estero una capacità propria di un'innovazione italiana che sa mettere insieme, mi sembra, l'innovazione leggera del design, per esempio, con un'innovazione anche magari ricercata, tecnologica, come quella, vediamo, dei successi che hanno in un altro settore, ovviamente, le macchine utensili. Quindi l'industria italiana, vista un po' complessivamente, avrebbe grandi opportunità di crescita anche all'estero, portando all'estero i propri prodotti. Credo che se confrontiamo l'industria italiana, in particolare le piccole e medie industrie, ci sia una differenza molto forte rispetto a ciò che è successo in altri paesi europei. Altri paesi europei hanno visto già da anni i grandi mercati in espansione dell'Estremo Oriente come delle grandi potenzialità. Allora, la produzione e le attività in Cina, India e negli altri paesi sono sicuramente o generano dei concorrenti molto agguerriti. Ma allo stesso modo in India, in Cina, in Corea si sono aperti dei mercati molto grandi. Alcune industrie italiane, tipo quelle del lusso ad esempio, sicuramente si sono mosse e si stanno muovendo, ma quando si parla che ci sono centinaia di milioni, o diciamo credo oltre 100 milioni sia in India e anche in Cina, di persone che accedono a una fascia economica sicuramente di livello alto, tutti questi sono potenziali consumatori che non comprano solo i beni del lusso, ma comprano tutto, dalle finestre alle tecnologie. E in qualche senso sarebbe possibile anche un'alleanza strategica tra il lusso e l'alta tecnologia, tra il design, cioè il bello della tecnologia, si può forse concepire? Sì, ci sono alcune aziende che sono riuscite a cogliere questi aspetti, anche in altri settori, ad esempio nelle automobili, certo, ci sono questo, ma vale anche nel settore dell'elettronica, perché se guardiamo l'elettronica di consumo, l'aspetto del design è molto rilevante, quindi non è così infrequente, certo, che anche produttori dell'Estremo Oriente diciamo, in qualche modo commissionano il progetto per la parte anche estetica a designer italiani. Ecco, abbiamo vissuto negli ultimi anni una innovazione direi quasi frenetica, ma a pensarci sono solo 20 anni che abbiamo i telefonini, che sono solo anche più o meno lo stesso periodo in cui c'è la posta elettronica, c'è internet e così via. È un'innovazione, diciamo, che procede un po' a onde, oppure proseguirà e nei prossimi 20 anni, magari tra 20 anni ci ritroveremo a discutere di cambiamenti epocali, oppure dobbiamo consolidare queste innovazioni che abbiamo avuto in questi ultimi anni? Personalmente ritengo che sicuramente c'è un andamento un pochettino a onde, come viene percepito, però l'innovazione ha ancora ampie possibilità di crescita. Le nuove reti radiomobile che forniranno, diciamo, una capacità molto più elevata dai telefonini, la maggiore diffusione delle connessioni Wi-Fi, le nuove tecnologie che si stanno sviluppando e che saranno sempre più importanti, ad esempio per il pagamento direttamente dal telefono, sono altri passi che sicuramente cambieranno il nostro modo di vivere anche nei prossimi anni. Quindi mi aspetto che ci saranno altri cambiamenti importanti. Tra l'altro l'Italia, che mentre in alcuni aspetti, come dicevamo prima, risulta un pochettino più indietro rispetto a concorrenti o ai paesi concorrenti europei o nel mondo, nell'utilizzo della rete mobile è forse il paese più avanzato o tra i paesi più avanzati. Quindi anche questa percentuale di possesso di telefonini, ne abbiamo 2 o 3, sì, per ognuno di noi. Sì, smartphone, telefonini, eccetera. E quindi a mio parere c'è la possibilità che anche queste nuove applicazioni che permettono di utilizzare il telefono anche con forme diverse, appunto ad esempio per il pagamento dei servizi, potrebbero a breve prendere piede e cambieranno un po' il modo di essere. Perché sì, ci sono anche sperimentazioni in corso per pagamenti anche di piccole somme, comprendere il caffè, comprare il giornale attraverso il telefonino, cioè è prevedibile che tra 10 anni potremo fare a meno del contante. Quindi è un'evoluzione che forse deve richiedere, come diceva prima, anche un atteggiamento culturale da parte delle persone. Sì, sì, anche perché l'abbandono del contante potrebbe non essere per andare per la plastica, come qualcuno dice, cioè la carta di credito, ma invece perché uno lo farà direttamente dal telefonino. Dal telefonino, infatti. Quindi infatti, con problemi ovviamente di sicurezza che ci sono, ma potranno essere risolti indubbiamente. Certo, nonché anche di gestione, poi di crediti, debiti, insomma, ci sono sicuramente. Ecco, sotto questo profilo, appunto, le diceva giustamente, ci sono ancora ampie possibilità di crescita. Per l'industria italiana sfruttare questa crescita deve essere possibile. Allora, il punto su cui noi spingiamo tanto, a livello italiano oggi gli investimenti in ricerca e sviluppo sono molto bassi. C'è un obiettivo europeo di arrivare al 3% di investimenti nel 2020, che sembra lontano ma non lo è. Quello che noi chiediamo al nuovo governo è che vengano messe in atto tutte le possibili misure perché anche l'industria italiana entri in questo obiettivo, insomma che l'Italia colga questo obiettivo europeo con le stesse cifre, perché se non investiamo in ricerca e sviluppo l'industria e il paese poi ne risente e rimane indietro. Ecco, in questa prospettiva i giovani che escono dall'università ovviamente hanno un panorama difficile di fronte a loro. Comunque è un settore questo su cui si può ancora, si deve ancora puntare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io però vedrei l'ICT, un po' come dicevamo all'inizio, quindi l'Information and Communication Technology, è un'attività che è trasversale a tutte le altre attività che oggi facciamo, sia industriali, sia appunto pubblica amministrazione e così via. Quindi sicuramente ci sarà necessità di giovani che entrino nel settore specifico, ma credo che l'utilizzo delle tecnologie e dei processi basati su applicazioni digitali e quindi la competenza su queste cose possa generare tantissimi posti di lavoro nelle altre imprese, non specificamente ICT. Cioè delle imprese che utilizzano i servizi della ICT. Perché le imprese che utilizzano, diciamo, i processi digitali per lavorare all'interno coi clienti e coi fornitori risultano vincenti a chi non lo fa. Allora bisogna avere questa competenza, bisogna gestire questo cambiamento. I giovani possono quindi non solo nelle aziende specifiche dell'ICT, ma anche vivendo e recependo questi nuovo tipo di processi, saranno anche le persone o le qualifiche più richieste dalle aziende non specificatamente ICT, dalla produzione manufatturiera a tutto, certo, il resto. Anche perché l'ICT entra dappertutto ormai, sì, quindi sì, è qualcosa che, con cui ogni azienda deve fare i conti. Ecco, sì. Ma tornando ai giovani, un giovane, un neo assunto nella sua azienda, che cosa gli dice il primo giorno in cui si presenta? Qual è il messaggio che dice per... oltre a fare le congratulazioni per essere riuscito a entrare in azienda? Beh, io credo che il giovane che entra in azienda, allora, dal punto di vista aziendale bisogna fare il possibile perché sia motivato a lavorare e a contribuire. E al giovane stesso digli di non aver paura di difendere le proprie idee con coraggio, ovviamente basate sui fatti, e di portare avanti le cose in cui crede, spingendo con tanta fiducia e passo dopo passo. E quindi anche lui potrà essere protagonista di una realtà che possiamo comunque, passo dopo passo, come dice appunto Whitney Houston, come lei ha ricordato, possiamo comunque far sì che i problemi che ci sono possano avere anche loro le risoluzioni. Assolutamente sì. Grazie a Cristiano Radaelli, il presidente di Anitech, che è stato qui questo pomeriggio con noi. Buona domenica ancora a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica. Buona domenica.